Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. In due puntate, stasera e domani sera, parleremo del progetto Bioman, con cui Agire, l'Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche, l'Università di Parma e il Politecnico di Milano e infine la provincia di Mantova stanno cercando di rilanciare il polo chimico di Mantova, caduto in disgrazia che rischia di perdere un capitale di infrastrutture e competenze poi molto difficile da ricostruire. L'idea di fondo è di trasformare questa vecchia raffineria, di cui oggi sono attive solo le strutture di stoccaggio, in una bioraffineria su cui far convergere le biomasse di scarto dell'agricoltura locale e anche altre biomasse provenienti da colture cellulosiche a basso impatto ambientale. Ne parliamo con Francesco Dugoni, che è direttore di Agire. Buonasera Dugoni. Buonasera. Allora Dugoni, qualunque progetto di chimica verde non può, questo l'abbiamo imparato, prescindere dalla disponibilità di biomasse. E voi infatti una delle prime cose che lì avete fatto è stimare le biomasse disponibili. Che quadro ne è venuto fuori? Intanto precisiamo che parliamo di scarti, materie seconde, sottoprodotti, proprio perché non si vuole creare ad esempio competitività con il settore dell'agricoltura, come purtroppo è venuto in altri agri-food, certo. E quindi certamente le nostre priorità sono rivolte ai materiali quali potature, paglie, stocchi di mais, e poi anche spaziando oltre il mondo agricolo c'è tutto il discorso legato ad esempio alle frazioni organiche dei rifiuti solidi urbani, che sì, rappresentano una massa organica interessante. E poi c'è anche la possibilità, diciamo, delle colture cosiddette cellulosiche, no? Sì, nel senso che ad esempio in questo senso si è rilevata molto interessante la Rundodonax, che è una pianta graminacea. La canna dei fossi praticamente. Cresce spontanea nei fossi, ma si sta già organizzando per crearla, diciamo, in modo sistematico presso aziende, giusto per fare biogas per esempio, ma avrebbe anche altre implicanze molto interessanti all'interno di una bioraffineria. Ecco, d'accordo. Parliamo sempre di una filiera abbastanza corta. Operiamo prevalentemente nel circondario, diciamo, della provincia di Mantova. Ci siamo posti, diciamo, come limite i 70 km di operatività, ma che sono basta avanza, ecco, per poter avere meglio stare sotto, lei dice, possibilmente nel trasporto di queste biomasse che sono anche povere, appunto non ha senso trasportarle su lunghe distanze. Ecco, complessivamente quanta biomassa potreste destinare a questo stabilimento futuro? Sì, appunto, considerando quelle biomasse che dicevo, cui aggiungo anche vinacce provenienti dall'agroindustria, certo, che lì a Mantova è importante, esatto, o cimali di pioppo, perché il pioppo viene coltivato, insomma, in modo ancora significativo nella nostra provincia. Siamo sull'ordine di 130-140 mila tonnellate annue raccoglibili, e precisando che appunto non consideriamo la disponibilità difficilmente ora quantificabile di conferimenti da coltivazione di arundo, perché non abbiamo ovviamente contratti con aziende, ma anche di stocchi di mais, che se ne produce parecchio in provincia di Mantova, e al momento, non essendoci ancora un progetto consolidato, è difficile intercettare le aziende che possono dare, okay, conferire questa parte, il gambo, quindi, diciamo, è, così è un, del mais. È un 130 prudenziale, ecco. 130, ok, perfetto, perfetto. E quindi insomma ce n'è abbastanza, questi sono i quantitativi che servono ad alimentare diciamo industrie da qualche decina di migliaia di tonnellate l'anno di prodotti. Esatto. Ecco, e appunto che cosa si potrebbe produrre a partire da queste biomasse che abbiamo detto? Ma il concetto classico di bioraffineria vuole che si vada a parlare di bioetanolo. Che è quello che si può mescolare con la benzina, per capirsi, esatto, no? Per farci andare l'erba. Però il progetto Bioman vuole andare oltre, non fosse altro perché produrre bioetanolo vuol dire accontentarsi, fra virgolette, di una resa dell'ordine del 20% rispetto alle matrici di ingresso. E questo evidentemente poi va a calzare con i costi di realizzazione dell'impianto stesso, se ho solo un 20% di rese. Quindi la nostra idea è appunto quella invece di diversificare una serie di linee produttive. Che cos'altro si potrebbe produrre oltre a questi biocombustibili? Allora, sì. In prima battuta sicuramente il biometanolo, perché è un prodotto estremamente interessante per l'industria locale del pannello. Noi abbiamo, cioè del pannello, cosa si intende? Il pannello è il trucciolato, okay, in cui il metanolo è la base per la produzione poi di collanti che servono, okay, alla fine per produrre il pannello stesso. E quindi già poter avere un output di questo tipo aumenta molto significativamente la resa dell'impianto, cui possiamo sistematicamente aggiungere anche prodotti più fini, parliamo ad esempio di xilitolo, parliamo di estrazione di polifenoli per la nutraceutica dalle vinacee. Quindi si possono ipotizzare, ripeto, più linee che consentono una forte utilizzazione delle matrici. Ecco, e in generale, siccome poi anche i costi dei biocombustibili si devono confrontare, intanto è un mercato gigantesco, servono quantità immense, i valori sono abbastanza bassi, oggi il petrolio è a $40, quindi pure la benzina e i combustibili ne risentono. Invece questi diciamo prodotti chimici più raffinati hanno un valore unitario proprio più alto, insomma possono far tornare i conti, perché il vero problema di queste robe è far tornare i conti, cioè no, oltre a far bene all'ambiente devono anche stare in piedi economicamente. Sì, e in parte aiuta il fatto che si parte da matrici povere che hanno un basso costo, diciamo, di acquisizione, e questo è un valore aggiunto che non va trascurato. Ma in seconda battuta è anche altrettanto vero che io più riesco a differenziare in prodotti che il mercato sa apprezzare, e meglio riesco a valorizzare queste risorse che sono sì degli scarti, ma che alla fine hanno delle potenzialità enormi. Grazie, grazie a Francesco Dugoni. Grazie a voi. Anche per questa sera abbiamo concluso, appuntamento a domani.